Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Questo è il passo del Vangelo che ha accompagnato tutta la vita di Don Luigi Melesi, da anni cappellano del carcere di San Vittore. Ora un libro edito da San Paolo, un prete da galera, racconta i suoi straordinari incontri. Da quello con un uomo disposto ad andare in carcere al posto di un amico, a quelli con personaggi noti come Renato Vallanzasca. Io credo che la prima cosa sia quella di ridare al detenuto la speranza e una coscienza della propria dignità, nonostante la situazione in cui si trova, l'errore commesso. Sentire che una persona resta sempre persona, anche quando commette i mali. I detenuti come l'hanno accolta? Sempre benissimo. Io stimo sempre la persona. Il valore massimo della creazione, che sia bambino, che sia vecchio, che sia colto, che sia ignorante. Io parto proprio da questo rispetto dell'uomo. Tra le storie che lei racconta c'è quella di Salvatore, andato in carcere al posto di un amico, padre di famiglia. Ricordo benissimo Salvatore. L'avevo conosciuto da ragazzo e avevo fatto tutto un cammino abbastanza in salita, perché avevo assistito all'uccisione della madre da parte del padre con una scure che gli ha tagliato la testa. Lui questa cosa l'ha colpito talmente che era profondamente disturbato. L'hanno portato a noi salesiani di Arese, l'abbiamo portato proprio alla tranquillità, all'accettazione della sua storia. Aveva imparato una professione, era soldatore. A un certo momento un suo carissimo amico in macchina, che veniva da Torino a Novara, e la macchina gli si rompe e l'abbandona sulla strada al margine dell'autostrada, la lascia lì. Il figlio dei compagnoni, che veniva con una grossa macchina, mi pare una Mercedes, c'era nebbia, era velocissimo, non ha visto l'auto, è andato contro ed è morto. Quando il giorno dopo ha saputo tutto questo, ha saputo che la macchina era di questo suo amico. Lui dice: guarda che tu sei imputato, fai così, tu dici che la macchina l'hai imprestata a me e mi prendo tutte le colpe io, perché tu hai 4 bambini da mantenere, lo faccio molto volentieri per te. E questo ragazzo è venuto in carcere e ha fatto 4 anni di carcere. Lei poi parla anche di Renato Vallanzasca, che ha incontrato più volte. Sono entrato abbastanza in confidenza, gli dico: senti Renato, io sono certo che tua madre non ti ha creato così violento, aggressivo e delinquente come stai dimostrando. Tu adesso invece stai recitando la parte che ti danno i giornalisti, dell'eroe negativo. Lui mi guarda e mi dice: Don Luigi, ma tu non sei solamente un prete, sei anche uno psicologo. Io, se fossi giornalista, avrei scritto un articolo un poco diverso, magari anche più corto. E lui mi domanda: cosa avresti scritto? Caro Renato Vallanzasca, per me tu sei una merda, firmato Don Luigi. E lui mi guarda e mi dice: mi avresti steso. È tutto vero quello che dici, è vero. Io bisogno di scoprire che non sono così grande come mi fanno. Mi ha chiamato un giorno, che era lì, che veniva dal centro Italia. Mi chiama, ero ormai passati alcuni anni, lo saluto, ero in massima sicurezza, guardato a vista, dico: Renato, come stai? Vedo che torni di tanto in tanto qui a trovarci. Come sto? Sto in galera. Ma senti, mi piace sempre farti delle domande. Tu avresti ancora voglia di scappare dal carcere? Se hai voglia di scappare, sei un uomo vivo. Se non hai più voglia di scappare, sei un morto che cammina. Lui è rimasto da questa mia battuta e poi mi dice: ma allora tu mi fai l'augurio di scappare? Certo. E mi stringe la mano. Io prendo la sua e, tenendola stretta, stringendo forte, dico: sì Renato, ti auguro di scappare, ma questa mano non deve più uccidere. uccidere, non deve far piangere, non deve rapinare, non deve usare la violenza. Mi dice Don Luigi, te lo prometto. Renato, non devi prometterlo a me, replico io. Tu questa cosa qui la devi promettere a te stesso. Poi se ci credi, promettilo a Gesù Cristo, che ti darà anche una mano per vivere come Lui desidera. E se vuoi, in terza battuta, promettilo anche a me. E lui, stringendomi forte la mano, mi dice, lo prometto a tutti e tre. Dopo 3 o 4 giorni lo trasferiscono in Sardegna, sulla nave a Genova, riesce a scappare dall'oblò della nave. Lo arrestano poi a Jesolo. Lo riportano successivamente ancora a San Vittore e mi chiama. Quando il poliziotto mi ha riconosciuto, io ero armato, avrei potuto freddarlo, avevo 2 pistole, ma ho consegnato le pistole dicendo prendi queste, guarda che sono cariche, se non farti del male, portami in carcere, perché mi è venuta in mente la promessa che ho fatto a me stesso, a Gesù e anche a te. Mi ha fatto gioire perché sono gesti che indicano un nuovo orientamento di vita. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Il mondo della comunicazione digitale è in fibrillazione nel suo rapporto con la dimensione etica. Il Tribunale di Milano in questi giorni ha condannato 6 mesi di reclusione la grande ragnatela mondiale che è Google, nella persona di 3 suoi dirigenti. Nel 2006 questo motore di ricerca mostrava un minore, affetto dalla sindrome di Down, picchiato da alcuni studenti di un istituto tecnico di Torino, mentre un altro ragazzo riprendeva la scena con il telefonino. Quel video sciagurato rimase per diverso tempo in visione e fu tra i più ricercati nella sezione video più divertenti. Le motivazioni del tribunale, che si possono certamente condividere, si possono così esprimere: il diritto di impresa non può prevalere sulla dignità della persona e della sua privacy. Risposta del portavoce di Google: è un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è costruito Internet, perché la responsabilità non è dell'azienda, bensì di coloro che caricano il video in rete. Sembrerebbe che il caso si sia fermato. Non sono così convinto che uno strumento così spiccatamente sociale sia lasciato ampiamente allo sbando come un qualsiasi portarifiuti in cui si può mettere di tutto e alla fine affermare che la colpa non è del portarifiuti, ma di coloro che ci buttano dentro di tutto. Siamo arrivati persino a regolare la raccolta differenziata senza per questo asserire che questa regola ci toglie la libertà di buttare la nostra roba dove vogliamo. E perché non darci una regolata anche per quanto riguarda Internet, specie quando si viola il diritto della persona ad avere la dignità e il rispetto che le compete?